Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si celebrano i 70 anni della Repubblica Italiana, sfilano i sindaci in corteo. Mattarella è la festa degli italiani e della libertà di scelta. Maltempo, migliaia di evacuati nella regione di Parigi, piena da record per la Senna, alluvioni in Baviera, le vittime sono 4. Dopo l'allarme per i minori intrappolati in città, il premier iracheno blocca l'offensiva su Fallujah, dobbiamo pensare ai civili, dice. Uber ed Airbnb, divieti solo come misura estrema, lo dice la Commissione europea nelle sue linee guida sull'economia collaborativa. Sono un rastafari, fumo erba per meditare e il giudice assolve un uomo trovato in possesso di 60 grammi di marijuana. Si apre a Trento il Festival dell'Economia, tema di quest'anno i luoghi della crescita, ci si concentra sui territori. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo e naturalmente buona festa della Repubblica a tutti. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e poi il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque proprio le celebrazioni per il 2 di giugno. Gli applausi per i due fucilieri di Marina alla Torre Girone, la sfilata dei sindaci e una folla di cittadini comuni più numerosa rispetto al passato. Sono le componenti della celebrazione del 2 giugno ai Fori Imperiali, una festa di popolo, una festa degli italiani, di tutti e non solo di quelli che indossano la divisa, così ha voluto il Ministero della Difesa in concerto con il Quirinale. E allora non si sono visti né carri armati né cingolati, ma 400 sindaci in rappresentanza dei 3.500 comuni italiani sfilare con le loro fasce tricolori. Il 2 giugno è la festa di unità. L'Italia migliore, la festa che unisce l'Italia, ha detto il capo dello Stato Mattarella, il quale ha aperto la giornata con la deposizione di una corona d'alloro al milite ignoto, ha raggiunto le tribune con la tradizionale flaminia decappottabile, ha assistito alla cerimonia insieme alle più alte cariche dello Stato, hanno sfilato in tutto 3.500 persone tra civili e militari, esercito, marina, aeronautica, carabinieri, reparti del servizio civile nazionale, atleti paralimpici della difesa, un applauso per i militari della San Marco, brigata a cui appartengono i fucilieri Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, mentre un omaggio dalle tribune si è elevato per Silvio Mirarchi, il carabiniere ucciso a Marsala. A concludere, come tradizione vuole, le frecce tricolori che hanno dipinto il cielo di Roma di bianco, rosso e verde. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Avete sentito che c'è stato anche un ricordo per il maresciallo Silvio Mirarchi, morto ieri pomeriggio all'ospedale civico di Palermo dopo le gravi lesioni provocate da due colpi di pistola che l'hanno raggiunto ad un rene e all'aorta. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno confermato la notizia dell'arresto del proprietario delle serre nelle quali era stata impiantata la piantagione di marijuana, 6.000 piante, che sarebbe stata scoperta durante un appostamento proprio dal maresciallo Mirarchi, che poi appunto è stato colpito. Massimo riservo intanto sulle indagini in corso per scoprire chi ha sparato contro il sottufficiale. Siamo alla situazione del maltempo che sta creando parecchi danni soprattutto in Francia e in Germania. Sono decine le città in emergenza con le squadre di soccorso al lavoro per portare in salvo con gli elicotteri le persone rimaste bloccate, mentre le previsioni meteo segnalano un persistere della situazione anche per i prossimi giorni sia in Francia che in Germania. Nella regione di Parigi sono migliaia le persone evacuate per i rischi legati alle violente inondazioni che continuano a minacciare abitazioni e aziende. Le acque del fiume Loire, un affluente della Senna, hanno raggiunto livelli mai toccati da oltre 100 anni quando a Parigi ci fu una massiccia inondazione. Le emergenze maggiori si registrano nei dipartimenti parigini di Loiret e Seine-et-Marne. È proprio qui dove l'allerta è rossa, una donna di 86 anni è stata ritrovata morta annegata nella sua abitazione. Incubo poi per oltre 650 automobilisti tratti in salvo sull'autostrada alle porte di Orléans da militari e protezione civile. Ma la perturbazione ha colpito ancora più duramente la Germania, in particolare la Bassa Baviera, dove si registrano 4 vittime. A Simbach am Inn 3 persone sono state trovate prive di vita dopo essere rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. Una donna invece è stata trovata morta vicino ad un torrente e a Marktrichtern 200 bambini sono rimasti bloccati a scuola dall'acqua. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'Italia invece le notizie ci arrivano dalle Marche e dalla Toscana. Iniziamo dalle Marche dove a causa delle forti piogge delle ultime ore a Fano ci sono stati molti allagamenti di primi piani e scantinati e vari smottamenti. Sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Pesaro. Fra i danni principali quello di un'auto rimessa completamente invasa dall'acqua. Per quanto riguarda la Toscana, invece, un forte temporale si è abbattuto all'alba sulla Versilia, una ventina di interventi dei vigili del fuoco nei comuni di Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta e Capezzano Pianore in provincia di Lucca. Viareggio ha allagato alcune strade con la chiusura del sottopasso delle Cataratte, alcuni rami sono finiti sull'asfalto. Qualche problema agli stabilimenti balneari, per il momento l'allerta resta sul livello arancione. Vi abbiamo parlato ieri della situazione a Fallujah in Iraq, una città nella quale le forze dell'esercito iracheno, stanno tentando di conquistare. Vi abbiamo raccontato ieri della situazione umanitaria molto difficile, l'abbiamo fatto in diretta col portavoce dell'UNICEF in Italia, Andrea Iacomini, abbiamo parlato soprattutto di minori. Ebbene, come vi dicevamo dai titoli, il premier iracheno Haidar al-Abadi ha ordinato di sospendere l'attacco al centro di Fallujah per proteggere i civili. Abbiamo in linea con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Perché è così strategica questa offensiva su Fallujah? Fallujah è a 60-70 km circa da Baghdad, è una città importante, è il simbolo, la roccaforte della resistenza sunnita sin dalla caduta di Saddam Hussein nel 2003, quando ci fu l'occupazione americana. È lì che si rifugiarono gran parte degli ufficiali baathisti, ma anche Al-Qaeda, è lì che si sono forgiati quei legami che poi hanno costituito di questa città appunto una roccaforte che ha sempre resistito prima all'occupazione americana e poi al governo sciita. Questo per quanto riguarda quello che rappresenta Fallujah e perché è così importante. Secondo te come può finire questa offensiva? Ma innanzitutto sono tre i motivi che hanno indotto il premier al-Abadi a rallentare questa offensiva. La prima è quella di salvare la popolazione civile. I civili sono usati sia come scudi umani, ma vengono reclutati anche ragazzini molto giovani proprio nelle file dell'ISIS. La seconda è quella di evitare anche le trappole del califfato, perché la città è stata disseminata di mine, di insidie, e la terza è anche quella di allontanare il pericolo nella confusione di una vendetta delle milizie sciite. Nei giorni scorsi Muqtada Sadr, uno dei capi più focosi, più ardenti dello sciismo, era ritornato alla ribalta. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi e per la sua analisi. Passiamo a Uber, Airbnb e tutti gli altri. L'Unione Europea dà le indicazioni. Il grande mondo dell'economia partecipativa, o sharing economy in inglese, ha ottenuto oggi l'appoggio della Commissione Europea. L'esecutivo comunitario ha pubblicato stamani, qui a Bruxelles, nuove linee guida, tutte tese ad evitare ostacoli e barriere a società come Uber, BlaBlaCar o Airbnb. Nella documentazione pubblicata oggi, la Commissione precisa, tra le altre cose, che licenze e autorizzazioni dovrebbero essere obbligatorie solo quando strettamente necessarie al raggiungimento di un obiettivo di interesse pubblico. Lo sguardo corre alla società Uber, che offre tra cittadini trasporto per auto. L'azienda subisce ostacoli in vari paesi europei. La Commissione, le cui linee guida non sono di per sé vincolanti, vuole da un lato evitare differenze nazionali nel grande mercato unico e dall'altro garantire la libera iniziativa economica, consapevole di come l'economia partecipativa sia in forte crescita e rappresenti ormai in termini di reddito lordo circa 28 miliardi di euro all'anno. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Rimaniamo sui temi economici. Arriverà il prossimo anno l'APE, l'anticipo pensionistico annunciato dal Premier. Sul tavolo varie ipotesi, ma manca ancora il confronto con i sindacati. L'obiettivo è ottenere un anticipo della pensione fino a 3 anni prima, quindi poco dopo i 63 anni. Come? È ancora da stabilire, nel senso che le ipotesi del governo ci sono, ma il tavolo con i sindacati non è ancora stato convocato. L'anticipo pensionistico, ribattezzato APE da Matteo Renzi, è un assegno dato agli italiani sotto forma di prestito da restituire a rate in 20 anni, direttamente con una trattenuta sulla pensione. A prestare i soldi saranno le banche, assistite dalle assicurazioni o le aziende, ma anche, per chi ce l'ha, il fondo di previdenza complementare. In questo caso si chiamerà RITA, rendita integrata temporanea anticipata, e sarà in sostanza un anticipo della rendita. L'importo dell'assegno sarà pari alla pensione futura, ma con una decurtazione, le cosiddette penalizzazioni, che andranno dal 2 all'8% per ogni anno di anticipo a seconda del reddito, per 3 anni, dunque da un 6 a un 24%. Per gli italiani diventerebbe troppo oneroso, dicono i sindacati, che chiedono più opzioni per lasciare la scelta al lavoratore. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo hanno definito il santo graal dell'oncologia. È un vaccino terapeutico universale efficace contro tutti i tipi di cancro. Lo studio pubblicato sulla rivista Nature porta la firma dei ricercatori dell'Università Gutenberg di Mainz in Germania. Al momento è stato testato su 3 pazienti in stadio avanzato di melanoma. Ma in che cosa consiste questo vaccino? Sentiamo il professor Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico dell'azienda ospedaliera universitaria senese, al microfono di Cuore e Denari. Utilizzare acidi nucleici, quindi RNA delle cellule tumorali, quindi ed RNA che codificano per proteine che sono normalmente espresse dalle cellule tumorali, facendo sì che queste vengano veicolate attraverso queste, chiamiamole per semplificare, particelle di grasso all'interno dell'organismo dei pazienti, e facendo sì che il sistema immunitario, una volta che ha visto queste molecole, si attivi in maniera specifica a riconoscere le cellule tumorali all'interno dell'organismo, ovunque esse siano, ovunque noi possiamo vederle con le indagini strumentali che normalmente facciamo, o anche magari in aree nelle quali ci sono poche cellule tumorali che noi non riusciamo a vedere in alcun modo e che possono essere eventualmente tenute sotto controllo dal sistema immunitario. Si apre questo pomeriggio il Festival dell'Economia di Trento. È la connessione tra geografia ed economia il focus di questa edizione del Festival, che ormai da 11 anni si svolge a Trento. Esperti, economisti, personalità politiche e istituzionali si confronteranno per affrontare un'area riscoperta solo di recente, lo studio del territorio in relazione alla crescita economica. I temi fondamentali del Festival si concentreranno dunque sul delicato equilibrio tra spazio ed economia, in un contesto che sta rapidamente cambiando grazie alle smart city e alla sostenibilità urbana. Per questo motivo al Festival saranno ospitati anche demografi, sociologi, esperti dei processi di agglomerazione e urbanisti. Ci sarà spazio anche per la geografia della corruzione, che verrà affrontata da Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Grande attesa poi per i ministri che saranno ospiti del Festival. Domani sarà la volta di Carlo Calenda, mentre sabato ci saranno Piercarlo Paduan e Claudio Gentiloni. Domenica infine arriveranno a Trento anche Maria Elena Boschi e Giuliano Poletti. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento. E oltre a tutti i ministri, gli economisti, c'è anche Radio 24 al Festival dell'Economia di Trento. Questo pomeriggio Sebastiano Barigioni sarà in diretta con Focus Economia. Per quanto riguarda Effetto Giorno, invece staremo in diretta domani, come sempre, a partire dalle 13. Quanto mai adatto il tema, visto che, come sapete, ci stiamo dedicando da un po' di tempo proprio ai territori italiani e a raccontarli. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi, appunto, iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Le prime due storie che vi racconteremo arrivano. Una da Brescia, e ci stiamo appresso a qualche giorno, come sapete, la vicenda che riguarda la decisione, o meglio il rifiuto per così dire, del sindaco di Brescia Emilio Del Bono di collegare direttamente la città tramite il servizio pubblico di autobus al nuovo megastore dell'IKEA. Dice nemmeno se lo pagassero loro. L'idea è di tutelare i negozi dei centri storici, e ne parleremo proprio con lui tra un attimo. E poi parleremo con l'avvocato di un signore, un uomo che è stato assolto dopo essere stato trovato in possesso di 60 grammi di marijuana, perché ha detto: beh, sono un rastafari, io quest'erba la uso per meditare. Traffico. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle celebrazioni per i 70 anni della Repubblica Italiana, abbiamo parlato del maltempo che riguarda in questo momento soprattutto la Francia e la Germania. In Baviera ci sono state 4 vittime, abbiamo parlato dell'offensiva su Fallujah in Iraq da parte dell'esercito iracheno che si ferma, abbiamo parlato di sharing economy perché sono arrivate le prime indicazioni dalla Commissione Europea in termini di linee guida su Uber e Airbnb. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Roncadelle, provincia di Brescia. Che cosa succede? Deve aprire un maxi store dell'IKEA, che in realtà è l'apertura di un grandissimo centro commerciale con 150 negozi, un migliaio di nuovi posti di lavoro, 200 milioni di euro di investimento, un numero enorme di metri quadri, sono 60.000. Saluto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Nei giorni scorsi lei ha fatto una dichiarazione che ci ha incuriosito, ossia apre questo enorme centro commerciale e lei ha detto: guardate, io, anche se lo pagassero loro, gli autobus, come dire, da servizio pubblico, dell'azienda pubblica di trasporti, là non ce li voglio far arrivare. Perché? Per tutelare i negozi del centro storico. Ce la spiega? Volentieri. Il nostro centro storico, come quasi tutti i centri storici del nord Italia, ha subito nel corso degli anni una desertificazione commerciale dovuta essenzialmente a una fatica, diciamo, delle piccole e medie imprese a reggere sul mercato. E come noi abbiamo cercato e come cerchiamo di rilanciare il nostro centro storico? Attraverso una serie di attività di natura promozionale. In questi ultimi 2 anni sicuramente, ha detto non solo mia ma della stragrande maggioranza di coloro che lo frequentano, il centro storico ha vissuto una stagione di maggiore effervescenza, che vuol dire manifestazioni, iniziative, un'attenzione al decoro urbano, una maggiore attenzione alla sicurezza, in sostanza un investimento della pubblica amministrazione. Sì. Questo investimento ha come finalità quella di far vivere il nostro salotto, che vive anche se c'è una rete commerciale presente. È chiaro che i centri commerciali che nascono non all'interno del comune di Brescia, ma nella cintura immediatamente nei comuni confinanti, sì, sono una evidente competizione concorrenziale con il centro storico cittadino e vivono anche di iniziative di promozione e così via. Sì. Quindi è chiaro che qui si trattava di un palese, diciamo, conflitto di interessi, in questo caso per quel che mi riguarda pubblici, perché il rilancio del centro storico è un'iniziativa Senta, sindaco, le faccio questa osservazione che in realtà arriva direttamente da un'ascoltatrice che ci scrive via WhatsApp al 349-238-6666. Dice: IKEA paga le tasse ma non vota, e forse il punto è quello. È un po' brutale, però gliela butto là. C'entra poco, diciamo che intanto l'IKEA è situata non all'interno del comune capoluogo, ma in un comune limitrofo. Quindi voterebbe comunque, ma non voterebbe per lei. Ma non voterebbe per me in ogni caso, ma quindi non è una ragione, è una becera ragione di elettorato, di voto. La seconda ragione è che è situata in un contesto non all'interno di un'area urbana, ma in una zona totalmente distante dall'area urbana. E quindi però io non ho capito, mi scusi Del Bono, non ho capito, lei dice anche se lo pagassero loro, cioè se IKEA dicesse mettiamo... Posso dire, non l'ha detto. La spiego questa cosa. Sì. Se è evidente che il trasporto pubblico si regge per il 30% sul pagamento dei biglietti o degli abbonamenti, e per il 70% dal contributo della fiscalità generale, sì, cioè in parte dal comune, sì, in parte dallo Stato, in parte dalla regione. Sì. Queste reti di trasporto pubblico, se si dovessero prolungare in termini di lunghezza, significa una rivisitazione complessiva della rete, degli orari, sì, e così via. Quindi in realtà non è che uno paga il servizio perché si fa un chilometro in più o 2 chilometri in più, perché sì, non se lo paga il servizio. Quindi sì, essenzialmente sfrutta una rete di trasporto pubblico urbano, pagata essenzialmente da tutti, per godere anche di un servizio che per paradosso porterebbe le persone dal centro storico a fuori. Però c'è anche un altro punto, c'è il punto ambientale, anche qua era la domanda successiva che io le avrei fatto, anche se anche questa arriva da un ascoltatore che ci scrive su WhatsApp. C'è un punto ambientale su questo, perché poi la gente a Roncadelle ci andrà comunque, che i negozianti del centro storico lo vogliano oppure no, e che lei lo voglia oppure no, e che ci sia il trasporto pubblico o no, al centro commerciale di Roncadelle la gente ci andrà comunque, e a questo punto ci andrà in macchina. No, no, ma questo non lo nego, che è l'unico punto che oggettivamente lascia qualche problematicità nella mia scelta, perché è evidente che ci andranno con l'automobile. Qui si tratta di capire quali sono gli interessi in gioco, sono molteplici gli interessi in gioco e in certi aspetti, per certi aspetti, confliggenti. Quindi in questo momento, soprattutto nella fase di avvio di questo grande centro commerciale, dove si spingerà anche fortemente in termini promozionali, è chiaro che non, la città di Brescia, il comune di Brescia non ha interesse ad agevolare un trasferimento di massa in quel centro commerciale. E quindi è una scelta dove gli interessi contrapposti, controbilanciati, mi hanno portato, a me e alla mia giunta, a decidere di non agevolare il trasporto pubblico fino lì. Bene. Anche perché appunto lo pagherebbe anche la cittadinanza nel suo complesso. Allora, a questo punto, dal lato del trasporto, il punto generale è chiaro, e il secondo punto, sindaco, riguarda, insomma, non è che penserà di arginare la fuga dal centro storico, no, in questo modo. No. Io mi rendo conto che sono battaglie difficilissime da condurre, perché c'è una grande trasformazione del commercio, del consumo, e quindi non è certamente il fatto che non arriva alla rete di trasporto pubblico che impedirà il successo o l'insuccesso di quel centro commerciale. Il tema è che tutti i sindaci sono impegnati in questa fase a concentrare le proprie attenzioni sulla propria area urbana. E quindi in qualche maniera le risorse, l'attenzione, gli sforzi devono essere ricondotti a questo obiettivo. Un centro storico più vivo è anche un centro storico più sicuro, sì, perché vuol dire minore impegno degli agenti di polizia locale. Un centro storico più vivo è un centro storico che combatte sicuramente alcuni fenomeni di disagio e di solitudine che comunque ci sono. Il centro commerciale è sicuramente molto più anonimo. E quindi noi è anche un modo per portare nelle nostre aree monumentali e quindi conseguentemente anche a visitare gli spazi museali i nostri concittadini. È una concorrenza, diciamola così. C'è una competizione. È chiaro che il cittadino è libero, un libero consumatore, di dire no, io me ne vado al centro commerciale piuttosto che rimanere al centro storico, certo, e fare anche due passi magari al museo cittadino piuttosto. Però lei dice non dobbiamo agevolarlo noi, questo mi è chiarissimo. La ringrazio, grazie Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, per essere stato con noi. All'ascoltatore o ascoltatrice che ci dice andranno comunque in macchina all'IKEA, perché di solito si fanno acquisti ingombranti, diciamo che forse ha perso l'inizio. Si tratta in realtà di un centro commerciale immaginato dall'IKEA, ma con in realtà dentro 150 negozi, dove c'è di tutto, c'è anche l'abbigliamento, ci sono molte altre cose. Nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo adesso a Bari e saluto Luca Bruno, che è un avvocato. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno. È per una curiosa assoluzione che c'è stata ieri in tribunale, o nei giorni scorsi in tribunale, e che riguarda... Non è ancora una soluzione però. Non è ancora una soluzione? Vabbè, intanto no. io racconto... raccontiamo qual è il punto. Una persona trovata con 60 grammi di marijuana dice... non è una soluzione ma una scarcerazione, chiedo scusa, 60 grammi di marijuana, e dice al giudice: guardi, io sono un rastafari, un seguace della religione rastafari, la uso per meditare. E il giudice dice: ci può stare, è più o meno così? Confermo, sì. Infatti innanzitutto dobbiamo fare una premessa: non vorrei che questa vicenda diventi uno spot, un incentivo al consumo di cannabis, dobbiamo dirlo pubblicamente e invitare giovani adulti a non farne uso, anche dato i conclamati effetti nefasti che queste sostanze provocano sul nostro corpo. Vabbè, su questo c'è un grande dibattito, avvocato, su questo, insomma, quindi ci andrei cauto. Comunque, prego. Allora, quindi, entrando nel merito della vicenda, vi posso dire che venerdì sera si è ritrovato il padre di questo ragazzo, un trentenne di un paese in provincia di Bari, disperato perché il figlio era stato, come ha detto lei prima, sorpreso con 50 grammi di marijuana dalla polvere, quindi presso la stazione di Bari. Abbiamo reso tutte le dichiarazioni presso il tribunale di Bari davanti alla dottoressa Perrelli, e in quale giustificazione addotta dal ragazzo, che punto punto ha contestato tutte le accuse rimosse, gli veniva contestato il reato di spaccio, ha addotto tra le varie giustificazioni, non solo nel fatto di essere un seguace della corrente religiosa rastafariana, quindi ricordo a chi non dovesse conoscere questa corrente che tra i precetti questa corrente religiosa innovera l'amore per la natura e per il prossimo e l'uso della cannabis, definita da loro come un'erba sacra, come una sostanza per amplificare i sensi durante la meditazione e la preghiera. Lo stesso ragazzo poi durante un'intervista ha anche dichiarato che userebbe questa sostanza a luci spente in una stanza adibita alla meditazione con un giradischi dove sentirebbe della musica reggae. Tutto verificato? Quindi, tutto verificato, avvocato? Cioè qualcuno è andato in questa stanza e ha verificato che è una stanza di meditazione? Quando la Polfer è andata in casa per la perquisizione e ha trovato la sostanza stupefacente, il ragazzo aveva mostrato alla PG questa stanza dove usa la sostanza stupefacente per meditare, per creare. Quindi credo che ci sia un riscontro comunque alle dichiarazioni rese dal ragazzo. Come dicevo prima, comunque il giudice ha disposto l'immediata liberazione del ragazzo, però ha rinviato al 5 ottobre la discussione del giudizio abbreviato. In quella data sapremo se il ragazzo veramente verrà assolto oppure il suo malgrado verrà condannato. Quindi abbiamo rinviato la decisione nel merito. Sì. Quando è che sarà, ci ha detto? 5 ottobre. Il 5 ottobre. Sapremo se la tesi difensiva troverà accoglimento. La ringrazio. Grazie Luca Bruno, avvocato di una persona di 30 anni, ragazzo poi, insomma, un uomo di 30 anni trovato con appunto circa 60 grammi di marijuana e scarcerato perché il giudice ha accettato la tesi che essendo un rastafari la usa per meditare. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi proseguiamo il nostro giro per l'Italia spostandoci in Liguria e torneremo dalle parti di Ventimiglia perché la pressione dei migranti che arrivano al confine si sta facendo sempre più intensa. C'è chi, come per esempio il sindaco di Bordighera, sta pensando di varare un'ordinanza nella quale intende scacciare le persone che non hanno un certificato medico, mentre appunto la pressione al confine resta piuttosto alta. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: si celebrano i 70 anni della Repubblica Italiana. A proposito, auguri a tutti, sfilano i sindaci in corteo e Mattarella dice la festa degli italiani e della libertà di scelta. Per il maltempo, migliaia di evacuati nella regione di Parigi, piena da record per la Senna, alluvioni in Baviera, le vittime sono 4. Dopo l'allarme per i minori intrappolati in città, il premier iracheno blocca l'offensiva su Fallujah. Dobbiamo pensare ai civili, dice. Uber ed Airbnb, divieti solo come misura estrema. Il suggerimento della Commissione europea nelle sue linee guida sull'economia collaborativa. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Adesso proseguiamo il nostro giro per l'Italia e tra un attimo andiamo nuovamente in Liguria per sentire qual è la situazione dei migranti al confine a Ventimiglia, ma prima torniamo su Roma. Lo facciamo semplicemente con una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. Cerchiamo di non occuparcene della capitale, ma alla fine qualcosa succede ogni giorno. Apprendiamo adesso che il direttore generale di ATAC, l'azienda di trasporto pubblico capitolina, ha sospeso i permessi sindacali di tutti dal 3 al 6 giugno in concomitanza con l'insediamento dei seggi del primo turno delle amministrative. Perché? Perché sono più di 850 le richieste all'interno dell'ATAC su 11.500 dipendenti per fare i presidenti di seggio, i segretari, gli scrutatori e i rappresentanti di lista. Questo è il quadro che arriva dall'ATAC dopo tutto quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Torna da noi Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia. Buongiorno sindaco e bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Andiamo appunto sul territorio e lo facciamo spesso con i sindaci che sono appunto la prima linea. Non a caso oggi avete sfilato, lei non c'era a Roma? No, sono qua al confine ancora. È ancora là al confine. Non a caso oggi hanno sfilato in 400 per la parata del 2 giugno. Mi sembra di leggere in giro dalle cronache che vediamo, dai colleghi che sono sul territorio, in particolare il secolo XIX di oggi, che le cose stiano peggiorando in termini di arrivi di persone sul confine e di pressione sul confine. Ma guardi, è un arrivo molto lento, un flusso molto lento, e questa è un po' la differenza rispetto allo scorso anno, quindi sono proprio piccoli gruppi che, insomma, quei treni arrivano, probabilmente anche l'azione dei filtri a monte in qualche modo attenua questo tipo di fenomeno, però è evidente che siamo oltre le 300 persone, adesso c'è, diciamo, l'azione della curia, hanno aperto in tutti i sensi le porte delle chiese, che sta ospitando qualche centinaio di persone, quindi insomma questa è la situazione al momento. Senta, c'è qualcuno che sta evocando là per Ventimiglia una specie di Calais italiana. Lo ricordiamo, Calais è quel luogo, appunto, che è sul canale della Manica, sostanzialmente, dove si sono raccolti, poi è stato in parte sgombrato il campo, molti migranti in attesa di poter andare in Inghilterra, cercando di salire sui camion o sui treni e così via. Lei intravede un rischio di questo genere oppure no, sindaco? Beh, per chi ha visto le immagini di Calais, direi che siamo molto lontani da quello che sta succedendo in questo momento qua a Ventimiglia. Comunque, con tutti gli sforzi dovuti, però si tenta di dare una risposta anche a livello proprio più che umanitario, direi umano, che è un po' diverso. Quindi non condivido questa visione, questa metafora. Dall'altra parte però non neghiamo che è molto difficile comunque riuscire a rispondere. Oggi, senza l'intervento della curia, saremo in seria difficoltà. Tra l'altro là c'è stato un problema, mi sembra di aver capito, la prefettura ha chiuso le porte del seminario o no? No, semplicemente c'è un discorso di insomma, ci sono diverse interpretazioni sull'accoglienza dei non identificati, perché in questo momento diventa molto difficile fare anche un'operazione di mediazione, ossia avere degli interpreti, dei mediatori che facciano capire, insomma, queste persone migranti, che c'è un percorso, volendo, di tutele se richiedono, si fanno identificare, sono richiedenti asilo. E il problema nasce nel momento in cui, avendo, insomma, attualmente questi numeri, questo percorso ancora non lo si riesce a fare, ed è evidente che solo le chiese di Ventimiglia, o comunque quelle che hanno aperto le porte, non sono in grado di ospitare tutte le persone. Quindi questa ipotesi del seminario deve passare, almeno sì, questo è quanto dice il sindaco di Bordighera, sì, e comunque la prefettura dà un processo di identificazione. Se così non fosse, ci sarebbe, insomma, un approccio diverso da parte di alcune istituzioni. Sì, ecco, a proposito di questo, lei citava il sindaco di Bordighera, che abbiamo provato a raggiungere, abbiamo evidentemente qualche problema telefonico, per così dire. Il sindaco di Bordighera dice: abbiamo pronta un'ordinanza per scacciare le persone straniere senza certificato medico. Lei come la vede? Beh, guardi, poi queste cose qua, insomma, dal dire a fare, uno può fare tutte le ordinanze che vuole, piuttosto che, però se poi non c'è, insomma, supporto anche della forza pubblica, difficilmente si può pensare solo per i vigili urbani di fare questo tipo di azioni. Io non credo neanche che si debba arrivare a tanto, è sufficiente con un percorso che però va messo in piedi, spiegare a queste persone, che molte di loro sono ignare di questo fatto, che possono avere delle tutele e delle garanzie se si fanno identificare. Mi pare che sia un'azione necessaria quella di identificazione, però rendiamoci conto che in una situazione di questo genere la prima cosa è andargli incontro dal punto di vista umanitario, poi tutte quelle che sono le azioni conseguenti. Prima gli do da mangiare e poi gli dico però fatti identificare. Esattamente. Questa detta proprio brutalmente, insomma. Brutalmente, no? La direi così. Ok, la ringrazio, grazie Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, ancora per questo nuovo aggiornamento. Noi adesso interrompiamo brevemente il nostro giro per l'Italia, però per parlare di un italiano. L'ingresso solenne a Gerusalemme si terrà il 6 giugno, è un compito molto delicato quello che attende il nuovo custode interrogato Terra Santa, padre Francesco Patton, che prende il posto di padre Pizzaballa. Katia Caramelli lo ha intervistato. La situazione è delicata da tutti i punti di vista e questo naturalmente è cosa nota. Nelle situazioni delicate è richiesta delicatezza, quindi è richiesto di fare attenzione, di essere persone che sanno ascoltare molto, che sanno anche che si sforzano di dialogare e che cercano anche sempre di comprendere le varie ragioni, in modo tale che possa nascere un dialogo autentico. Ecco, in Terra Santa si sperimenta ogni giorno lo sforzo, no? Del dialogo sia interreligioso ma anche del cammino verso l'unità dei cristiani. Sì, in Terra Santa c'è sia la dimensione del dialogo ecumenico, perché di fatto condividiamo con altre confessioni, in particolare con i greco-ortodossi, con gli armeni, con i copti, alcuni dei luoghi santi più importanti, come ad esempio il Sepolcro o come anche la Basilica della Natività a Betlemme, e poi c'è una dimensione inevitabilmente interreligiosa, come cristiani siamo la minoranza in Terra Santa, dobbiamo anche confrontarci con rispetto e con attenzione con l'ebraismo e con l'Islam, e poi naturalmente questo si muove anche all'interno di dimensioni, potremmo dire, anche più politiche, no? E noi ci troviamo lì in mezzo. C'è un terreno sul quale, col quale lavorare insieme? Sicuramente, credo che uno dei terreni sul quale si può lavorare bene insieme è ad esempio il terreno dell'educazione, della scuola, perché di fatto la Custodia di Terra Santa gestisce anche diverse scuole e le scuole sono luoghi dove vengono sia ragazzi cristiani di varie confessioni, sia anche molti ragazzi musulmani e anche dei ragazzi ebrei. Quindi quella diventa un po' una palestra per avere un approccio lungimirante anche al tema del dialogo e della pace. E poi sicuramente altri ambiti, quelli che anche spesso Papa Francesco ricorda come ambiti aperti all'interno degli uomini di buona volontà, l'attenzione ai poveri, l'attenzione anche alle persone in difficoltà, ecco, questo sicuramente non manca e le istituzioni della Custodia di Terra Santa lavorano naturalmente in questa direzione. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero, ci risentiamo tra poco per i saluti.